Sì, ma alzami un po'. Perfetto, aspetta, aspetta. Ho qualcosa da dire. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Spiegami cos'è che non si fa fatico ad arrivare nel momento in cui si dà. D'altronde non è facile pretendere con me mentire ed è difficile scommettere su te, tentare. Dammi una risposta che non c'è. Certamente non puoi darmi ciò che voglio, anche se sembra facile parlare dietro il culo di chi è qua. Quando chi misura a volte il peso proprio non lo sa. So che se non sai portare il tuo livello un po' più su, superando chi ti ostacola per poi guardare giù, giurerai che non hai voglia di restare ancora qui. Quindi voglio che alla mia domanda tu risponda sì. Simpatizzo per chi peli sulla lingua non ne ha, altrettanto per chi è fuori dagli spazi e resta là. Lascia stare, quante volte nella vita chiederò. So che qualche volta qualche stronzo mi dirà di no. Yo, oh, yo. Dai, Jolly, sei pronto per la seconda strofa? Fammi prendere aspetta un attimo. Yo, dimmi se vale la pena stare a rischiare su gente nata normale, cresciuta e poi andata male. L'ha detto il telegiornale che se la borsa non sale lo Stato toglierà il pane. Niente regale a Natale, mio Dio cosa posso fare? Devo sfogarmi, voglio tornare allo stadio e coi poliziotti picchiarmi per poi lanciare i petardi e gridare agli altri bastardi. Così dovranno arrestarmi ma Dio potrà perdonarmi, non so. Forse dovrò tenermi a chiuso un bel po' rigorosamente in silenzio. Mi chinerò e pregherò rivolgendo tutti i miei sforzi a chi ci comanda dall'alto, che tanto morto uno presto se ne fa un altro. L'Italia vive di questo e sorrida ad ogni pretesto. Toglietele tutti i debiti, sì, ma non tutto il resto. E non discutete di taglio, vi stringeranno il guinzaglio. Vorrei soltanto un parere, dite che sbaglio. Ehi, hey, yo, primo, quanta gente ancora muore ingiustamente? Secondo, chi tra voi crede di essere innocente? Terzo, se le accuse sono tutte su di te, forse al quarto prova a chiederti perché. Yo, ditemi dov'è che non esiste più razzismo e quanto sarà lunga questa guerra al terrorismo. Chiedere la pace è una frase che ho già sentito, ma com'è che tutti parlano e nessuno muove un dito? Quanti hanno potere ma le ideologie sbagliate? Quanti soldi girano tra più mani bucate? Quanti tossicomani ora sono in fase cronica? E quanto tempo ci vuole a far esplodere un'atomica? Dimmi quanto credi nel destino, lo scrivi tu al mattino, lo tieni rinchiuso dentro al comodino. E se è vero che un domani tutto questo potrà incidere, dammi una ragione per la quale dovrei vivere. Troppo grezzo sto pezzo.